Anch'io sono rientrato al lavoro dopo 2 mesi di inattività. Ho provato a dire al mio capo che non ero in ritmo, è un po' così. Mi ha mandato a cagare. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Allora, va bene in calcio, ma la notizia più importante della giornata è Pardo che canta con Max Pezzali. Ma ne vogliamo parlare, sì o no? Tranquillo, siamo qui noi, filosofi playboy, Zerbini alle 8:30, puntuali al bar. Lei sicuro non verrà, lei sicuro non ci sta, tacchi a spillo e sguardo da star. E gli amici che ti vedono con lei, sanno già che il gol tu non lo segnerai. L'ultimo passaggio non lo azzecchi mai, ora è sempre pedalare. Caro Pierluigi Pardo, oggi radio tweet musicale te lo mando io. Beh, grazie. No, bellissima idea, devo dire, di Max, di Lodo Wensi, con tanti amici, da Giallini a J-Ax, a Jack Tapure, Mischilla, alla Pina e insomma Nicola Savina, beh adesso l'ho detti quasi tutti, Pinguini Tattici, spero di non dimenticare troppi, e con un intento benefico, sapete, perché insomma tutto va a questo fondo che si occupa della... appunto degli autori, dei tecnici, delle persone che vivono nel mondo dello spettacolo senza essere, diciamo, delle star, tanto per essere chiari, che quindi in questo momento possano subire di più i rischi della pandemia. Poi so che Spotify raddoppia il contributo che gli arriva e quindi insomma speriamo di raccogliere una bella cifra. La canzone è molto molto figa, devo dire, è molto divertente, molto estiva, l'ha scritta Lodo dello Stato Sociale ed è tra l'altro fatta con tutte, è un patchwork di tutte le cose più celebri di Max Pezzali, che devo dire è una persona fantastica, insomma ho già un bel rapporto con lui, ma in questa occasione l'ho ulteriormente rinforzato. Per forza, è un mio concittadino, è mio amico. Normale che sia così, scusami. D'altra parte sapevo che eri pronto per il Festival di Sanremo come conduttore, adesso lo sei anche come concorrente, in bocca al lupo. Caro mio. Paolo Condò, buongiorno. Buongiorno, per niente. Ciao Paolo, ciao. Sto crepando di invidia. Sto crepando, beh, perché generalmente le persone dovrebbero non me ne frega niente, non sono invidioso, no, stare sempre distaccate, lo invidio da pazzi, sì. Andare a cantare Hanno ucciso l'uomo ragno o Sei un mito, queste cose qui è il sogno della mia vita. Ma guarda, riassumendo nel mio podio delle cose nel mio podio delle cose preferite da fare, in un ordine non meglio precisato, esatto. Ci sono le telecronache, assolutamente la cosa che mi piace di più al mondo, il cantare e giocare a pallacanestro. Ora, per giocare a pallacanestro è un, insomma, ormai è un capitolo un po' chiuso, perché qua fra crociati e fatto che sono una pippa, eccetera. Le altre due ci provo, cioè una ci provo, una forse ci riesco pure, l'altra ecco, cioè, mi sono buttato perché la circostanza lo imponeva, ecco. Paolo, non ti preoccupare, al basket andiamo a giocare noi, io e te. D'altra parte tu da triestino, cioè perché tra arrivi dalla culla della pallacanestro. C'è sempre stato un feeling particolare, perché se sostituisce le telecronache e il parlare di calcio TV o scriverne, sono assolutamente le stesse tre passioni. Ecco, a basket non temo confronti, un tiratore come me, Pier se scorda queste cose, però cantare, a lui lo chiamano i cantanti veri, a me manco gli amici al bar dopo 2 bottiglie di vino. Vabbè. Senti Paolo, ma adesso il canestro è più triste. Chiudo questo aspetto. Il canestro è una cosa, forse l'ho anche raccontato, qui non so resistere. Cioè io il canestro mi riporta, non che io abbia un'età mentale particolarmente matura, perché sapete che sono un bambino di 12 anni, come età, ma quando vedo un canestro per strada impazzisco. Cioè l'anno scorso dovevo presentare un evento, solo che in questo evento c'era una serie di attività collaterali vicino e c'era un canestro. e sono arrivato veramente zuppo, presentazione informale, non è che era, era Confindustria, per carità, però cioè, sono arrivato veramente zuppo di sudore perché no, sì, proprio ha un potere erotico su di me il canestro. No, io invece posso soltanto aggiungere, dopodiché parliamo di cose più tristi, che e denunciando la mia età ormai venerabile, che se ai miei tempi tirare da lontano avesse voluto dire tre punti anziché due, come era, non avresti mai sentito parlare del condor giornalista, proprio mai. Ah, pensavo di Michael Jordan. No, ma d'altra parte vieni dalla, vieni dalla terra di Rubini, cioè esatto, vieni dalla terra di avevo fatto ambientare a Trieste. Allora Paolo, metti il tuo timbro autorevole, quello del UEFA arriverà al 17, sulle, a proposito di fiori che nascono sulle macerie, sulle final eight delle coppe. Beh, divertente naturalmente, molto aperto, anche perché nessuno gioca in casa, a parte speriamo Cristiano Ronaldo, no, poi chi ci sarà ancora? João Félix, che lui si è già qualificato con l'Atletico Madrid, insomma qualche singolo giocatore portoghese, ma non essendoci né Porto né Benfica, sarà un vero campo neutro e è un'idea, devo dirti, intelligente per provare a sfruttare l'opportunità data da una tragedia come quella del Covid, naturalmente. Sì. Ecco, l'UEFA da questo punto di vista è stata innovativa, per fortuna è notizia di pochi minuti fa, non sarà innovativa il nostro campionato, la pagliacciata delle no retrocessioni è stata scongiurata, voi sapete, credo che abbiano votato, come era largamente previsto, 18-3, e che gli stessi tre della Serie A che sono andati a votare, cioè presidente D'Alpino, Marotta e Lotito, lo abbiano fatto in coerenza del mandato ricevuto dall'assemblea di Lega dell'altro giorno, ma in cuor loro nessuno dei tre riteneva perseguibile questa cosa delle retrocessioni bloccate. Certo, sono ufficiali anche le promozioni delle tre ben note dalla Serie C, in caso di stop della Serie A, play-off e play-out, queste le decisioni prese. Adesso le commentiamo, ma prima chiudiamo il discorso sulle coppe. Pierluigi, sarà sempre una Champions, un'Europa League, perché anche per l'Europa League si parla di Final Eight, con partite secche ovviamente nei quarti di finale, con semifinali, finali, tutto one shot, però saranno coppe con l'asterisco perché i regolamenti cambiati in corsa sono un'altra cosa, secondo te? Beh, allora, è sempre un cambiamento in corsa ovviamente, però questo è un cambiamento, questa sono d'accordo con Paolo, è abbastanza una win-win, nel senso che il regolamento cambia in corsa ma non ha un effetto di sporcatura del senso della manifestazione, nel senso che a differenza del campionato, sai, io sui playoff del campionato, non perché non mi piacciono i playoff in assoluto, mi possono anche piacere, ma sui playoff del campionato decidi alla 26esima giornata in maniera del tutto arbitraria, se gioca in 2, in 4, in 6, in 8, in 10, cioè francamente quella soluzione lì, che pure giustamente Gravina a un certo punto ha dovuto considerare, perché dobbiamo essere aperti a tutte le soluzioni, quindi bisogna assegnare i titoli e la cosa migliore è che ci sia il merito sportivo piuttosto che la monetina o l'algoritmo, no? Su questo non c'è alcun dubbio, quindi tutto quello che può essere utile per creare il merito sportivo va sempre meglio, però è chiaro che il campionato, che comunque si porta una classifica da 26 giornate, non lo puoi chiudere col playoff pensando che non ci siano favoriti e sfavoriti, no? Mentre la Champions e le Coppe Europee sì, e quindi sono d'accordo con Paolo, è una win-win, cioè una cosa che secondo me alla fine può andare bene per tutti, avremo un paio di partite in meno in termini proprio numerico, ma il senso della competizione sarà quello. Avremo dal punto di vista dello spettacolo, se possibile, addirittura più adrenalina, perché chiaramente nei quarti di finale e le semifinali si giocheranno su 90 minuti e non su 180, quindi sì, con diciamo tutta la tensione emotiva ulteriormente accresciuta. Quindi diciamo che è una soluzione intelligente, ma del resto insomma c'è la Final Four della Torino al basket. Nell'Eurolega c'è la Final Four, fa parte insomma del, non cambia i meccanismi, non cambia gli equilibri, il campo neutro è un'ulteriore garanzia, per cui ben venga. Sì, più che Eurolega mi viene in mente l'NBA, no? La soluzione creativa dell'NBA per finire la stagione. Sì, quella di giocare a Disney World. Quindi mi viene in mente qualcosa di simile. Naturalmente è una cosa che tu puoi fare nell'intento di creare questa bolla sanitaria dove è più facile controllare tutti quanti, lo puoi fare in una città come Lisbona dove ci sono due grandi stadi e quindi tu puoi giocare. Immagino, adesso non ho visto ancora i calendari, cioè non li ho visti, non sono ancora pronti, però immagino che giocherai una partita, un quarto di finale alle 19 e un altro alle 21 nei due grandi stadi di, sì. Lisbona, sì. Che sono anche molto vicini, che poi noi siamo abituati a pensare grandi stadi, in realtà a porte chiuse, bisogna certo. Vedere, magari faranno entrare un po' di gente, perché sennò speriamo, potresti giocare anche nei centri di allenamento di Benfica e Sporting Lisbona. No, speriamo, esatto, speriamo che almeno una percentuale di persone possa entrare, perché è una cosa che va benissimo, win-win, come diceva Pier, perché una volta che tu, per correttezza, fai disputare le gare di ritorno Juventus-Lione a Torino, Manchester City-Real Madrid a Manchester e così via, per quello che può valere un fattore campo privo del pubblico, ecco, una volta che tu allinei tutte sì, le squadre sì. Agli ottavi di finale, basta. Sì, parte da 0-0. Cioè, non è come i playoff vanno a discutere un merito acquisito. Qui invece non c'è nessun merito acquisito. Certo, e certo. Riparti da zero come se fosse un mondiale. Sì, Paolo, con che spirito ti avvicini a venerdì, sabato, alla ripresa, tra l'altro anche della Liga, non dimentichiamolo, in questo finale di settimana. Con quale umore ti avvicina quelle date? Allora, mi avvicino con... sono molto carico, devo dire la verità. Ma sono molto carico per un motivo che è preesistente, cioè che viene prima di tutto questo. E cioè sono molto carico dal fatto che i numeri del contagio stanno migliorando ormai in maniera visibile dovunque. E quindi quello che io sostengo da quando si è cominciato a parlare... E cioè prepariamoci a riprendere, dopodiché si riprende soltanto se i numeri sono molto calati, ecco, si sta verificando. Cioè, andando avanti così, però ormai mi sembra che il trend sia abbastanza solido, andando avanti così si sta risolvendo. Sì, certo, in Lombardia siamo ancora decisamente indietro rispetto alle altre regioni, ma ormai ci sono regioni che da giorni e giorni non si sono più contagiati, non ci sono più delle vittime soprattutto, e quindi anche l'aspetto, come dire, psicologico della cosa, insomma, si gioca più volentieri in un paese che sta tornando alla normalità. Ma addirittura ti dico che andando avanti così, aspettiamo ancora i numeri e cominciamo intanto con le porte chiuse, si può ipotizzare con un pizzico di speranza, magari nella seconda parte di questa tranche finale del campionato, di riportare un po' di gente allo stadio. Con dei principi ovviamente che sono poco da calcio, perché noi siamo abituati, cioè noi, i tifosi sono abituati ad abbracciarsi, a buttarsi uno sull'altro, e questa è ovviamente la bellezza del pallone, e qui invece bisognerà usare qualche precauzione in più, ci vorranno le mascherine, ci vorranno magari due posti liberi tra uno spettatore e l'altro, però ecco, cioè, già 10.000 persone allo stadio significa non avere uno stadio vuoto, significa ridare a 10.000 persone, a 20.000 occhi la possibilità di vedere le partite dal vivo, e, insomma è un passo verso la normalità, verso la bellezza, è il discorso che facciamo dal giorno zero, anche da quei giorni terribili in cui ci sembrava un incubo senza fine, sapevamo che sarebbe, che insomma speravamo quantomeno che sarebbe tornata la vita e la normalità, adesso i numeri vanno in quella direzione e il calcio può fare la sua parte, ovviamente con tutte le precauzioni e le prudenze certo. Sanitarie che ci devono essere. Certo, mi piace molto, mi fa molto bene tutto il vostro ottimismo, io però noto che ci sono ancora conti a proposito di regolamenti e di conti da regolare, no? Federcalcio, Lega, dissidenti, c'era, oggi è stata dissipata appunto il problema dell'assenza di retrocessioni, che era, come dicevi tu Paolo, una follia. Non si trova ancora una quadra al momento sulla storia delle quarantene, quindi ci avviciniamo lì con grande carica, con grande ottimismo, ma anche con qualche perplessità, almeno dalle nostre parti. Insomma, io mi aspetto, allora io da questo punto di vista mi aspetto che all'ultimo momento, prima di cominciare a giocare, arrivi anche quell'emendamento alla quarantena che sarebbe fondamentale per avere la certezza della conclusione regolare della stagione, insomma, cioè, se i numeri anche in questa settimana continueranno a calare, veramente non capisco perché noi dovremmo essere l'unico paese al mondo dove, perché il modello tedesco è stato adottato anche dall'NBA, per dirne una, sì. Ecco, non capisco per quale motivo noi dovremmo essere gli unici a non poter fare la quarantena individuale, Sì, certo. Cioè, con questi numeri di contagio, con questo indice di contagio che ormai è stabilmente sotto l'uno da parecchio tempo, ce lo troverei assolutamente giusto. Sì. Anche perché sennò poi apre la porta alla furbacchioneria e a qualche sospetto che dalle nostre parti è sempre legittimo. Sicuramente sì, però il motivo per cui io ritengo che debba essere applicata è che ormai ci sono anche i numeri sanitari, perché non è che io la applico rischiando delle malattie perché so che altrimenti qualche presidente mi porta tutti a contagiarsi, capito? Sì, lo faccio perché penso di essere ragionevolmente sicuro. Sì, sarà un ripartire da 0 a 0 con l'handicap disegnato dalla classifica precedente, perché io mi aspetto qualcosa di totalmente differente rispetto a quello che abbiamo lasciato. Ma poi secondo me sarà anche un abituarci a una convivenza col virus che in questo momento, facendo tutti gli scongiuri e le corna del caso, sembra essere fortunatamente molto in ribasso, però il tema vero è stato sempre questo, sarà sempre quello della convivenza col virus, nel senso che se, io ho detto mille volte, se sacrificare queste ultime 13 giornate, la Champions League di quest'anno, qua intanto c'è un convegno di Marina Paci, non so se li sentite sottofondo, dico se questo fosse veramente una garanzia di poter poi cominciare la stagione successiva senza problemi, era sicuramente la cosa da fare, ma la realtà, da quello che ci dicono i virologi, è molto diversa, cioè che comunque il virus adesso è in sordina, speriamo che rimanga in sordina, speriamo che non ritorni, sicuramente i nostri medici e le nostre istituzioni e noi stessi siamo molto più preparati a un eventuale ritorno del virus se dovesse ripresentarsi nel periodo invernale, però ecco, insomma, non è ancora andato via del tutto, quindi noi dobbiamo cominciare a fare le prove di convivenza con questo virus. Certamente. La nostra vita è cambiata, devo dire che è abbastanza divertente vedere, quasi sociologicamente divertente vedere tutti questi gomiti che vengono dati, tutti questi abbracci mancati, no? Com'è cambiata la nostra interazione umana, anche la più semplice, anche la più banale, in questi mesi, è cambiata in una maniera enorme, non è che ci poi faccia ci piacere, poi una delle caratteristiche dell'essere umano è che si adatta a tutto e si adegua a tutto, ma difatti la cosa che più mi ha fatto non dico sorridere perché non c'è stato veramente niente da sorridere in questo periodo, la cosa che mi ha fatto più pensare è stato quando ovviamente qualsiasi espressione della nostra vita è radicalmente cambiata da quella appunto affettiva, amicale che citava Pierre, del darsi di gomito a quella professionale, il lavoro in smart working, per noi i collegamenti, smart working e così via, cioè tutto è drasticamente cambiato. Io ho rivisto i miei genitori che sono vecchietti, sono andato a vederli a Trieste in questa settimana dopo 4 mesi che non li vedevo, e potete immaginare anche la festa, anche perché vista l'età non era scontato che trovassi in così buona salute. Ecco, però l'unica cosa della quale ma non è lo stesso, il calcio. Tutto è cambiato, però il calcio con grande disfattismo si diceva non è lo stesso. Certo che non è lo stesso. È ovvio che non è lo stesso. Non è come, lo stesso tutte altre, come tutte le altre cose non sono le stesse, ma ricominciamo a farle che torneranno. E ogni giorno noi nel nostro piccolo suoniamo la carica per ricordare che la priorità è riportare i tifosi allo stadio, cioè un calcio di plastica appena possibile. Io lavoro per Mediaset, per DAZN, Paolo lavora per Sky, quindi insomma lavoriamo per le televisioni vi assicuriamo, come ripeto spessissimo, che non c'è una persona che lavori a Mediaset, a DAZN o a Sky che abbia minimamente desiderio di avere le porte chiuse. Lo stadio è bello pieno e per me, e lo dico da persona che lavora in televisione, andare allo stadio è un piacere che non ha uguali, anche se in alcuni stadi onestamente la partita purtroppo non si vede bene, questo è un problema, i servizi non sono all'altezza, però l'esperienza dal vivo per me, lo dico da persona che lavora in televisione, è irripetibile, quindi figuriamoci. L'obiettivo deve essere quello, senza se e senza ma. Un po' per tutti. Che è ovvio che insomma intanto ci andiamo a riprendere un pezzetto di vita, no? E poi magari ci tornerà la voglia e poi magari tra qualche settimana rivedremo almeno un po' di tifosi allo stadio. Un passo alla volta con regole certe, chiare e possibilmente condivise. Prima di salutare Paolo Condò volevo farvi sentire a tutti quanti una cosa per poi rubarvi un pensiero. ecco il giorno lì, altro che sera pieno San Siro. 30 anni fa Oman Beak fu re d'Italia per una notte, Paolo. Allora, fu il mio primo mondiale, Italia 90. La sera di Oman Beak io ero a Roma perché seguivo l'Italia in quel mondiale, quindi aspettavamo il debutto dell'Italia che sarebbe arrivato il giorno, la sera dopo, all'Olimpico contro l'Austria. Che cosa ti devo dire? I ricordi di una tale tenerezza rispetto a Italia 90, rispetto al condò di Italia 90, ecco, ti posso dire soltanto questo. Se mi indichi il pulsante per tornare indietro e rifare tutto quanto, rifaccio più o meno tutto uguale dal 90 in poi. Che poi fu tutto perfetto tranne il finale, quindi sì, tranne il semifinale, una finale anche molto brutta, devo dire, dal punto di vista dello spettacolo, però fu un bel mondiale, vinto, però quello che mi ricordo io, in realtà il mondiale dal punto di vista tecnico non fu granché, però fu meraviglioso per lo spirito che animò quel mese il nostro paese, insomma fu una cosa meravigliosa. Mentre, senza fare grandi polemiche, se vogliamo vedere una chiave un po' più sociologica, però probabilmente fu un'occasione persa, perché noi ci ritrovammo dal punto di vista degli stadi, stadi realmente moderni, altri meno, insomma la sensazione che si potesse sfruttare quell'occasione. Ecco, prima si faceva l'esempio di Lisbona e il Portogallo con l'Europeo del 2004, loro ci sono arrivati fra l'altro con rotto della cuffia, mi ricordo il giorno della presentazione c'erano ancora dei tubi innocenti fuori dallo stadio, ancora dei pezzi di cantiere Porto, ci sono arrivati così proprio veramente con rotto della cuffia, però poi quell'evento lì ha rappresentato molto per il Portogallo e le strutture, i 4-5 stadi principali del Portogallo sono bellissimi, quindi ecco, noi nel 90 non ce la siamo giocata benissimo, però avevo 16 anni, ero un pischello simpatico, sognavo di fare un giorno il telecronista, devo dire che oggi quando Aldo Serena ha pubblicato quella foto con tutti i giocatori della nostra nazionale, con le maglie delle Arsenal, mi si è allargato il cuore, come direbbe Mario Brega. Senti Paolo, grazie. Allora, Mario Brega. Allora, la prima occasione, io e te contro Pardo e chi vuole, 2-2. Ma con grande piacere. Io mi porto Gigi da Tome, dai. Vabbè. Vabbè, sempre col fratello grande, bastardo. Ciao Paolo, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Prima di salutare che Pierluigi Pardo, Giulio da Bari, buongiorno. Buongiorno, io sono Giulio e Spond Atletico Madrid. Sì. E ciao Pierluigi. Volevo solo una piccola precisazione, visto che sia ieri che oggi su Tutto Sport sono apparsi due titoli. Ieri davano Cavani all'Atletico e oggi invece Morata all'Inter. A me dispiace, però, dalle notizie che io ho, Cavani non verrà sicuramente all'Atletico, è stato vicinissimo a gennaio, poi però non c'è stato l'accordo, e Morata non si muoverà da Madrid, l'unico magari potrebbe partire sarebbe Diego Costa. Tutto qui, non vi rubo troppo tempo. No, ma noi usiamo questa fonte giornalistica perché il nostro amico è tifoso del Bari, ma mezzo barese, mezzo madrileno, abbonato colcionero da quanti anni? Dal 2002, ogni tanto mi è capitato di incontrarlo in aereo in quell'occasione di qualche partita dell'Atletico, quindi sicuramente anche secondo me ben informato, quindi sono informazioni che usiamo e che giriamo agli esperti di mercato. Le Final Eight ti piacciono, Giulio? Possibilità di Final Eight di Coppa? Non mi esaltano, però devo dire che per quanto riguarda il formato della competizione potrebbero dare un briciolo di brio in più, perché la partita secca, per quanto a volte non sia così divertente, però dà un briciolo di emozione, di adrenalina in più. Secondo me come formato per le televisioni potrebbe essere più interessante. No, ma io non veramente, sarà tutto quanto fronte italiano e gli altri campionati. La Germania sta un po' smentendo tutto, perché il Bayern favorito era favorito, rimane, anzi conquisterà tra poco il titolo, però Pier, io credo veramente sarà il regno dell'incertezza in qualunque sport. Assolutamente, e potrebbe aumentare le possibilità, adesso abbiamo l'Atalanta già qualificata, ci auguriamo che Napoli e Juve possano centrare i quarti di finale, potrebbe essere un ulteriore vantaggio per un outsider, nonostante tutto rimane un outsider. Perché è chiaro che le differenze dei 90 minuti possono essere meno di quelle dei 180, insomma, anche se devo dire che l'Atalanta dell'ultimo periodo, l'Atalanta di marzo, onestamente non doveva veramente aver paura di nessuno, però ecco, insomma, sicuramente non è la favorita numero uno, e il fatto di giocare la partita secca potrebbe darle un vantaggio. Poi vediamo, speriamo che siano tre italiane. Ciao amico mio, ti lascio andare a cantare. Ciao Pier, ci fermiamo per la borsa. Dopo aspetto anche ascoltatori se vogliono intervenire, numero verde 800 24 00 24, WhatsApp vocali 349 238 6666. Facciamo un salto a Genova da Carletto Pernat, perché mi deve spiegare un paio di cose sul motomondiale, e poi uno a Napoli da Antonio Giordano. Perché a Napoli sono successe negli ultimi, in questa stagione interminabile, talmente tante cose che nemmeno in 10 anni di normale storia sportiva. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Attraversiamo confini ogni giorno, piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Attimi che diventano storie indelebili nella nostra memoria. Linee d'ombra racconta proprio quegli attimi, piccoli o grandi episodi della nostra vita che ci hanno trasformato nelle persone che siamo, perché le nostre storie raccontano di noi molto più di qualsiasi presentazione. Raccontare, condividere stralci delle nostre vite è il miglior modo per affermare: ecco, io sono questo. Le linee d'ombra che abbiamo attraversato ci hanno mostrato spazi, luoghi e mondi che nemmeno noi sapevamo di poter abitare. Invia un episodio della tua vita che ha a che fare con un confine e il passaggio di quel confine a lineedombra@radio24.it. Una, massimo due pagine. E noi, ogni giorno, ci prendiamo lo spazio e il tempo per raccontarla. Linee d'ombra di Matteo Caccia, dal lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21.30 su Radio 24. Tutti convocati. The target at this moment we can say that is be the rookie of the year, to be more competitive on the track with the MotoGP, to know the feelings and every day growing up. Vorrei essere rookie dell'anno, Alex Marquez. È da qualche giorno che volevo fare questa telefonata pubblica a mio amico Carletto Pernat, perché vorrei capire, 2020 deve ancora cominciare e sarà il 19 di luglio in Spagna e poi da lì via rotta di collo in Europa. Ed è già pandemonio sul 2021. Beh, la Ducati Miller, il matrimonio Miller Ducati per il 2021 lo sappiamo, ne abbiamo parlato. Dovizioso resta da convincere, ma la Honda che fa? Prende Marquez fratellino, non senza qualche polemica, lo porta alla riunione di famiglia con Mark e poi, prima ancora di cominciare a correre, dice: vabbè, ti fai quest'anno e poi vai via, perché ne prendiamo un altro. Carlo? Sì, guarda, siamo di fronte a una storia di fantascienza. Io francamente in 40 anni di carriera una cosa del genere l'ho mai vista. Sembra che in Honda ci sia veramente una regni il caos, perché non è possibile che tu... E chiaramente, allora, il fratello di Marquez è stato messo lì perché Mark l'ha voluta a tutti i costi. Sì. Questo è sicuro ed è certo. Il fatto che la Honda, nella persona di Puig, prenda un altro pilota, Paul Espargaro, che poi non è che sia la fine del mondo, un bel pilota, ma non è che abbia fatto grandissime cose, e praticamente fa correre un pilota segandogli la testa, cioè lo mette come un robot su una moto e gli dice: intanto corri adesso, poi te ne vai. Sì. A me sembra di rasentare la fantascienza. Io credo che ci sia un grosso problema di management nella Honda. L'ha dimostrato già dal fatto di quando Lorenzo è stato lasciato andare via senza obbligarlo, non era accordi con nessuno, cioè aveva 2 anni di contratto, il giorno dopo che ha smesso, che ha preso i soldi, ha fatto contratto con la Yamaha. Questo già da parte di un management e di un'azienda mi sembra veramente un errore fondamentale. Io credo che stiamo rasentando, certamente il periodo ha messo in crisi tutti, i contratti finiscono presto. Quello che mi domando oggi è questo, Carlo: c'è un silenzio brutto o bello, mettilo come vuoi, da parte di Honda e del management di Marc Marquez. Non c'è stata una dichiarazione né da parte di Alzamora, né da parte, che è il manager dei piloti, né da parte di Marc, né da parte del fratello, nessuno ha parlato. Sì. Io ho l'impressione che in questi giorni ci sia riunioni via Skype, mettile come se, chiaramente non è che uno vola in Giappone, che ci sia qualcosa che bolle in pentola di grosso, perché Io non so il contratto che ha fatto Mark, le clausole, nessuno le conosce, però questa è una di quegli... Allora, a Mark Marquez gli puoi fare tutto quello che vuoi, che lui se ne frega, nel senso buono della parola, ma non toccagli fratello. Sì. E secondo me ha già fatto un errore lui a mettere fratello insieme a lui, doveva fare la prima con Cecchinelli e poi eventualmente passare. Certo, certo. Ecco, quindi io ho l'impressione che avendogli toccato il fratello ci sia qualcosa che si sta, se non rompendo, perlomeno crepando. E d'altra parte... Crepando come crepa, è chiaro. Questo è chiaro. D'altra parte, appunto, se l'ha voluto lui e gli hanno rinnovato il contratto a Mark, però adesso lo mandano via prima ancora di correre un metro di un gran premio... Ma c'è qualcosa, allora è chiaro che è una guerra personale di Puig, ma allora, Puig ha delle perle, scusami, adesso io mi levo un po' di sassolini, ma lo dico a livello professionistico e professionale. Ragazzi, Puig ha mandato via Pedrosa, che uh-huh. era il suo pupillo, e l'ha fatta andare via, è andata a fare il collaudatore in KTM. Uh-huh. Lorenzo l'ha voluto lui e l'ha mandato via. Uh-huh. Sarko l'ha voluto lui e non l'ha preso. Uh-huh. Cioè c'è qualcosa che mi stride, cioè o la Honda. Allora io posso dire una cosa, io non vado molto d'accordo con tanti personaggi, ma San Nakamoto e San Supo, voglio dire, capisci? Sì, almeno sì, c'era un management serio che poteva fare delle scelte giuste, sbagliate. Poi c'è avuto solo la fortuna di trovarsi Marquez quando è arrivato, che non c'era nemmeno, c'era prima di lui. Uh-huh. Che cosa ha fatto? Nulla, sta facendo dei disastri a livello interno. Senti, io mi meraviglio. Ma secondo te sarebbe fantascienza immaginare un Marc Marquez clamorosamente sul mercato? Ma guarda, tutto dipende dal contratto che ha firmato, ragazzi. Sai, i contratti di questo genere, specialmente per 4 anni, sono contratti che sono di 70 pagine, questo è evidente. Certo. Quindi ci sono clausole di tutti i generi. Non lo so se un avvocato buono abbia messo questo tipo di clausola, nessuno se l'immaginava. Però, dico sempre però, non lo so, anche questo aspettare da parte della Ducati di chiudere con Dovizioso, che secondo me andrebbe fatto immediatamente, secondo me, non lo so, c'è qualcosa, guarda, in questi giorni c'è qualcosa che alleggia di molto strano. Mm. Io non voglio fare, non sono l'uomo delle bombe di mercato, mi conosci, però ragiono e dico, questo silenzio, perché avrebbero dovuto parlare sia Alex che Mark che Altamore, certo, nessuno, certo, ha parlato. Beh, gli hanno fatto uno sgarbo è innegabile, no? Ecco, bravo. Per cui, sai, io non lo so se la Honda, che è Marquez dipendente, onestamente, possa permettersi un affare di questo genere. Non lo so. Io credo che anche in Honda in Giappone stiano seriamente pensando al management. Sì. Perché se non lo fanno sono dei pazzi, onestamente. Senti, ma nel 2021 secondo te vedremo ancora Valentino Rossi in questo tourbillon di manubri che cambiano? Guarda Carlo, anche questa è una bella domanda, perché tutti aspettano la firma da un mese, tutto è fatto, quindi firme non ce n'è nemmeno da parte di Valentino, parliamoci chiaro. C'è il discorso che corre quest'anno, perché era contratto, però per il 2021 non c'è nessuna firma nemmeno da parte sua. Per me Valentino si sta guardando intorno, la Yamaha giustamente quando ha detto adesso non aspettiamo, però ti diamo la possibilità di correre nel 2021 con la moto ufficiale, con la Petronas, è stata una decisione molto, molto da signore, giusta, corretta da parte di una grossa azienda. Io dico che secondo me non avere firmato ancora, e credo sia una questione di squadra, perché Valentino si vorrebbe portare la sua squadra tutta, ma la Petronas chiaramente più di 2 persone non gli dà. Io credo che questo è il busil, tant'è vero che sibillinamente Valentino ha fatto le dichiarazioni dicendo che Quartararo lo può aiutare, è un suo alleato, perché io penso che anche Quartararo, dopo il campionato che ha fatto, si voglia portare la sua squadra dietro, è normale, no? Sì, però sì. Lì c'è un busil, diciamo, tra virgolette, molto grosso. E guarda, secondo me Valentino un po' in giro si sta guardando. Questa è la mia opinione. In giro non è che ci sia tantissimo, perché è tutto più o meno sistemato e apparecchiato, salvo appunto clamorosissimi colpi di scena come quelli che possono riguardare Marquez, in cui può entrare la Ducati e così via. Rimane KTM, dove dovrebbe finire il nostro amico Petrucci. Guarda, Petrucci è un altro di quelle cose, francamente, io capisco che secondo me poi ognuno dà la sua valutazione, giustamente la Ducati valuta che Petrucci può arrivare a un certo livello e molto probabilmente non ha un altro, ha fatto delle scelte giuste e logiche secondo me, Però a questo punto Petrucci è un pilota da MotoGP e bene o male nei primi 5-6 ci arriva sempre, per cui allora quelli dietro cosa stracciano la licenza? Io penso che ci sia la possibilità di Petrus, di KTM e anche di Aprilia, perché sai, c'è sempre quella famoso discorso della squalifica di Iannone, che qua non si capisce niente, perché novità? Ma le novità sono molto semplici. Allora, il TAS è un organismo, come tu sai, che ha i ricorsi finali di tutti gli sport, tutti. Quindi quando è stato fatto ricorso, magari il ricorso di l'appello, diciamo, di ricorso di Iannone era il numero 62, perché prima c'era quelli dell'atletica, del basket, ora non so. Quindi non è, poi il coronavirus ha dilatato i tempi, non è che se lui è il 62esimo la sua pratica va a diventare seconda. Quindi ho l'impressione che i tempi stiano slittando. Cioè non è che puoi andare a fare una raccomandazione, comincia il mondiale, sì, ma quelli prima. Quindi sai, non è che la vedo tanto bene, se devo essere sincero. Ho l'impressione che è abbastanza negativo il discorso, e mi dispiace, perché il talento di Iannone è un talento, secondo me, dopo tutte queste bastonate potrebbe ridimostrare di essere quello che era, anche lui può essere una chiave di mercato, perché sai, non credere che la Ducati non ci abbia pensato, perché ti posso garantire che ci ha pensato, sì, ci ha pensato, è il numero 3, non è il numero 1. È chiaro che l'obiettivo è fare Dovizioso, Miller, che sarebbe una signora squadra, perché Miller può diventare una sorpresa, ragazzi, è uno forte. È quello che ti può così scompaginare tutte le carte, tutti i piani con la sua vena di follia. Certo. Un'ultima cosa, Carletto, ricomincia il campionato, hai voglia di rivedere il Genoa, sebbene solo in TV? Guarda, io ho voglia di sport in generale, come tutti noi, perché l'ora di finirla di non fare sport. Lo sport è vita, lo sport ti dà vita e voglia di fare. Quindi io ho voglia di vedere il campionato. Pazienza se porte chiuse, è un segnale che andava dato. Il segnale è giusto giocare. Poi dopo è chiaro, se ci saranno dei problemi, questo non dipende da noi, però il segnale andava dato e ho voglia amata di giocare, di vedere giocare, anche se vedo tanti discorsi da parte di presidenti, dirigenti, che insomma lasciano un po' il tempo che trovano, mi sembra un po' un cortile, tanto per essere chiaro. Però il calcio lo vogliamo vedere, perché siamo innamorati di questo sport e di tutti gli sport, dalla Formula 1 alla moto, tutto deve incominciare, perché sono segnali di vita, non possiamo non vivere senza sport. E è se pazzesco, tutto va bene, calcio. Amico mio, se tutto va bene, a settembre ci becchiamo un doppio Misano, magari anche con ingresso del pubblico in qualche maniera, solo sulle tribune, non sul prato, insomma. Ti dirò di più, forse anche prima, perché se tu sai, Claude Michi, che è l'organizzatore del Gran Premio di Le Mans, ha fatto una proposta al governo francese e la Dorna l'ha accettato, dove anche il 4 di ottobre, se gli fanno fare le porte aperte con 30.000 spettatori, lui oggi mette già il Gran Premio. Quindi vedo molti segnali positivi. Io sono d'accordo con te, probabilmente a Misano. Ecco, le prime due gare purtroppo non andranno né stampa né manager di piloti, dovrò stare a casa, darò dei pugni nel muro. Però poi ad agosto vedremo. Sì, qualche raggio di sole c'è. Ciao Carletto, a presto. Grazie, ciao, grazie a voi. Grazie, ciao. Carlo Perna, ci fermiamo per il traffico e poi passiamo da Genova, da Carlo Perna, da Antonio Giordano a Napoli. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter. O cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. In questo momento noi dobbiamo pensare di lavorare sui rinnovi, come stiamo facendo, i più vicini sono Zielinski e Mertens, poi ce ne saranno altri e in base ai rinnovi poi cercheremo fra due mesi di capire che innesti fare. Quindi prima i rinnovi, poi si vende, si chiederà di vendere qualcuno che magari ha richieste, qualcuno che magari non ha più così voglia di restare. Questo era Cristiano Giuntoli, uomo mercato del Napoli. Antonio Giordano, ciao! Eccomi qua, ragazzi. Come stai, amico mio? No, mi difendo. Bravissimo. Non ci sia altro da fare. Senti, Napoli aspetta l'Inter in una stagione che potrebbe a questo punto portare ad una finale di Coppa Italia, parte dall'1-0, si gioca sabato sera, ripresa appunto di tutta la giostra. Coppa Italia che sarebbe altamente simbolica in una stagione, Antonio, che per le cose che sono successe vale 10 vite sportive. Cioè sembra 100 anni fa quando iniziava la stagione. 100 anni fa iniziava la stagione con Carlo Ancelotti con propositi di scudetto, poi è in Champions è andata come è andata, e in campionato è andata come è andata, cioè malissimo, e via Ancelotti, arriva Gattuso e poi si ferma tutto. Insomma, ne sono successe a Napoli più che da altre parti. Quasi non mi sembra vero che si possa parlare di calcio. Oh. Invece siamo qui a farlo, per fortuna, significa che ci stiamo riappropriando più o meno di una normalità che speriamo ci venga restituito dagli dei in fretta. E la Coppa Italia, come dicevi tu, vale quasi 10 vite di calcio, perché ne sono successe tante, troppe, ma non sappiamo quello che succederà, e vale per chiunque, perché nessuno, credo che neanche gli allenatori siano in grado di poter, come dire, quantificare la forza della propria squadra. Il campionato tedesco qualcosa ci ha detto, per esempio che è saltato il fattore campo, sì, e non poteva essere diversamente. Però il campionato tedesco ha tutto sommato confermato i valori, il Bayern era forte prima, è diventato ancora più forte dopo, anche se il fattore campo salta eccetera. Tu ti aspetti qualcosa di simile anche in Italia, o qualcosa di profondamente diverso rispetto al filo che abbiamo, si era spezzato prima? Devo dire, mi riconosce un'intelligenza che sospetto di non avere, però credo che si possa andare incontro a qualche clamorosa sorpresa. Qualcosa può cambiare. Il fattore campo l'abbiamo decantato a volte anche con retorica, l'undicesimo uomo in campo, dodicesimo, saranno 11, e quegli 11 che ci saranno potranno avere qualcosa in più rispetto al passato, rispetto a chi invece potrà avere qualcosa in meno. Gattuso, allora, se a fare bene può capitare, confermarsi è sempre molto difficile. Mi sembra che questo spicchio di stagione che abbiamo visto di Gattuso a Napoli sia stata la più importante delle conferme. Sì, intanto a Gattuso va mandato un abbraccio serio, fraterno, sincero, per il dramma che ha vissuto con la perdita della sorella. E dal punto di vista professionale tanto ha dato, dopo un inizio abbastanza contraddittorio in cui ha avuto bisogno di capire dove fosse capitato e cosa fosse necessario fare, perché tra le tante cose che sono successe, la più clamorosa di tutte, Covid a parte, è stata la sommossa del 5 novembre da parte della squadra. Io credo che sia un avvenimento più unico che raro nella storia del calcio, non me lo ricordo, e forse ai tempi di Gaucci, ma rischio di sbagliare. E quindi vuol dire che si era rotto qualcosa, vuol dire che si era veramente in prossimità della chiusura di un ciclo, anche dal punto di vista comportamentale. Ha rimesso in piedi una squadra, l'ha riveduta e corretta al mercato con l'aiuto di Giuntoli, comprando una serie di calciatori di cui pensava di aver bisogno, ed è venuto fuori nella fase, diciamo, discendente, quella immediatamente prima della sospensione, con 5 vittorie a un pareggio, e il pareggio con Barcellona. Certo. E credo che sappia ora molte cose in più di prima, ovviamente, e credo che sia in condizione di poter dare un senso a questa stagione, che un senso l'avrebbe, perché non saranno partite in tono minore, ed eventualmente non sarà una Coppa Italia figlia di un dio minore. No, certo, no, quello no, è una grande occasione questo per dare un senso totalmente inaspettato alla stagione del Napoli. Ti ricordi quante volte abbiamo detto, tu hai citato quell'episodio dell'ammutinamento e poi l'addio di Ancelotti, quante volte abbiamo detto tutti insieme, Napoli alla fine del ciclo, un Napoli da rifondare, un Napoli che da smantellare e ricostruire su basi nuove, diverse. Gattuso è un traghettatore, mentre si va verso un prolungamento della vita sportiva di questa squadra. Mertens, lo scrivi tu anche oggi, è un passo dalla firma del rinnovo, così Zielinski. Caleon, che addirittura sembrava dover andare via a gennaio, potrebbe rimanere per un'altra stagione ancora da decano. Perché tutto questo? Perché evidentemente è difficile staccarsi da Napoli, capisco Mertens, onestamente, anche perché se abiti a Palazzo Donnana, che immagino tu conosca, e se non conosci ti invito a visitarlo, è una sorta di paradiso terrestre. Perché evidentemente ci sono le condizioni anche dal punto di vista calcistico, perché una società ha il dovere di guardarsi dentro, dinanzi a un giocatore di 33 anni, però anche dinanzi al mercato. e di confrontarsi poi con un genio qual è Zielinski. Spero che un giorno se ne renda conto anche lui, perché siamo dinanzi a un giocatore che esce dalla routine e che possa contribuire ad elevare ulteriormente il tasso tecnico del Napoli. Quanto a Calleon, ho il sospetto che sia difficile trovarne un altro. Sì. Se è nato non si è visto, e quindi c'è questa tentazione di aprirsi al dialogo. Poi magari, lo sai, dinanzi a un contratto, se arriva soprattutto un pluriennale da un'altra parte, che sia la Spagna, certo, un giocatore ha il dovere di pensarci. Certo. Però perlomeno hanno ricominciato a parlarsi, e in tutto questo c'è qualcosa anche da parte di Gattuso, che è stato bravo a prenderli per il cuore. Ha toccato le corde giuste e si sono più o meno risistemati gli umori. Beh, però qualcosa deve essere successo al di là di questo, perché dopo quell'episodio, insomma, la squadra sembrava davvero finita, no? Sembrava, immagino, la fine di un ciclo. Sì, immagino che ci sia stata anche la consapevolezza da parte dei giocatori di averla fatta grossa. Ed era giusto che si facesse un passo indietro, almeno sotto il profilo dell'atteggiamento. Sì, senti Antonio, un'ultima cosa, ma a settembre, insomma, il Napoli partiva con ambizioni da scudetto, lo diceva Ancelotti, lo credevamo tutti, poi sono successe quelle mille cose di cui che abbiamo ricordato. Con quale ambizioni partirà Napoli secondo te nel futuro? Immediatamente quello di riuscire a dare un senso alla stagione, come dicevamo, cioè sì, questo la Coppa Italia, cercare di essere sempre in Europa League, che è l'obiettivo minimo del campionato, e poi c'è la partita eventualmente di agosto del Camp Nou. Anche lì non ci sarà il dodicesimo uomo in campo, immagino. Ed è chiaro che giocare contro Suarez, come contro Messi, contro il Barça, non è come giocare con rispetto contro, che so, San Pier d'Arena, ecco, sì, il primo che mi viene per la testa. E poi per quanto riguarda il futuro, al di là della rivoluzione che più o meno è cominciata e che continuerà, perché continuerà, credo che un ruolo da protagonista ancora lo voglia conservare. Mi piace credere, e ho il dovere di crederci anche come giornalista in base alle cose che seguo quotidianamente, che ci sia questa volontà. Cioè, cambiare sì, ma non per il costo di cambiare. Cambiare per restare centrale all'interno del sistema calcio. Il Napoli sono 10 anni che va in Europa. Certo, è vero, certo, che non vince una Coppa da 6 anni. L'ultima è stata quella di Rafa Benitez. Però è anche vero che ha sempre assicurato, assecondato i propri tifosi, anche se stesso, una politica gestionale di De Laurentiis. No, certo, stabilmente nel giardino dei grandi, e questo è un grande risultato sportivo. Grazie Antonio, a presto. Un abbraccio. Molto presto, un abbraccio a te Antonio Giordano. Io ringrazio Edoardo Lavezzano in redazione, Lorenzo Rescoli in assistenza, poi Gianmarco Ferronata in montaggio, Valeria Bernardi qui in regia. Ci sentiamo domani tutti convocati alle 14. Ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.